però a Bamboni non riuscivo a, c'era esaurito un condensatore e non riusciva a acciapparlo, e se l'ha detto, mi pare che ce l'ho ancora in magazzino questo coso. Ma che cosa? C'è questo coso? Un affare che usavo per mettere, per caricare la batteria. C'era un condensatore grosso dentro e si era esaurito e non riusciva a acciapparlo il condensatore. Ci ha detto, mi avrebbero già ancora in magazzino. Di lampadine, di booster, perché la batteria si scarica poi e non serve più, perché se lo lascio un po' di tempo fermo, quello va bene, perché c'è un'officina che deve caricare le batterie delle macchine e cose, perché se no non va bene, per i privati non va bene, perché lui su una volta ogni morto di ogni papa, poi ti si scarica la batteria, non serve più. Infatti ce l'ha caricata pure la batteria, poi ha partito il condensatore, l'ha partito, era grosso come condensatore, non sono riuscito mai a acciapparlo. Otto, che booster era elettrico, ma era quelli semplici che trovavi anche da Bricoman alla piazzetta per caso, che aveva anche il compressorino e la pila, cioè c'era una torcia, premi un pulsante e si accendeva la luce. Io avevo questo. No, questo non ne aveva, c'aveva una piccola torcia, ma non funzionava. Però quando mettevo, che lo usavo molte volte che non partiva la macchina, lo usavo per mettere in moto la macchina e metteva subito anche. Ed era forte, poi si è caricata la batteria, è andato via il condensatore, ha detto arrivederci. E si è aggiunto in magazzino, mi pare che vi sia ancora, sorti da giurampato. No, quello che avevo preso io costavano poco, costavano tipo 39-49 euro, ed è sviluppato in verticale, un po' un barasone, era, con la maniglia sopra, sviluppato in verticale, però alla fine dentro, sai cosa c'è? La batteria è una volgare batteria, quelle per gli allarmi, da 12 volt 10 ampere, quelle al piombo gel, che pesano un caraccio e non danno nessuna potenza. Poi c'era dentro un mini compressorino per gonfiare le gomme, che, ma minimi, proprio a giù mai, quasi non riesce a gonfiarti la gomma. E poi una pila che anche da me c'era rovinata il giorno dopo, premevi e non accendeva più. E quello tanto vale allora avere almeno la batteria, io ce l'ho, l'avevo usata per vari usi, 10 ampere, 12 volt, nel caso che uno ci abbia la batteria a terra, l'importante è che te la porti carica, ogni tanto la ricarichi, te la porti nel cofano bello con i terminali coperti, e l'attacchi con i cavetti, aspetti un minuto in modo che dia un po' di carica alla batteria principale, poi metti in moto, dovrebbe partire. Invece adesso stanno facendo questi booster sempre più costosi, potenti anche, con la batteria litio, che ti dà una corrente di spunto molto ma molto alta, che si misura in C mi pare, avete presente, no? Adesso le misurano in C tipo 250C, eccetera, però costano anche un pacco di soldi, anche 100 e più euro, ne ho visti tutte le cifre. Vai Gianni. Sì, mi pare che quello metteremo anche il camion, che riescono a mettere molto anche i camion grossi e hanno meno potenza di spunto, perché quella che conta per farla partire la macchina conta che abbia potenza allo spunto della batteria. Infatti quando fai questo lavoro da una macchina all'altra devi accelerare forse con l'altra macchina di modo che la batteria sia bella carica, e mentre è accelerata gli attacchi il cavo, così almeno metti molto subito. Pensa che sulle istruzioni c'era scritto che andava bene per motori piccoli, tipo un 1000 o 1200, già se avevi un diesel 1400 era duro da avviare, figurati, con quel avviatore che avevo io, ma un giocattolo era. quindi quella batteria lì, sì, per la mia macchina va bene, per dire, però non parte bell'argillo, parte un po' arranchende, e inoltre ti brucia anche mezza batteria, cioè ti riduce molto la capacità della batteria se la usi per far partire un'auto con la batteria a terra, capito? Purtroppo quella piombo gel sono così, sono fatte per altri scopi, sono delicate. Invece questi booster nuovi hanno delle batterie tremende, con proprio alte potenze di picco, ecco. Vai Tore. Invece io con la mia macchina non posso usare neanche i cavi, non posso usare. Non sono libero. Ma io ti dice, non attacchi i cavi, non aiuti a nessuno, perché sennò gli parte la centralina, e qua la centralina costa parecchi soldi, dovrà lasciare la macchina ferma. Hai compreso? Ma non posso aiutare più a nessuno, va. No, tutte le macchine sono così adesso, non si possono attaccare i cavi, io li ho attaccati lo stesso. Mi ha chiesto la mano d'aiuto, quella che abita nel mio palazzo, che non ripartiva la macchina, gliel'ho messa in moto. Come mai questa cosa? L'impulso fa partire la centralina, dicono, che è pericoloso, non si può mettere neanche in moto a strada, cioè non c'è nessuna maniera, ma pure la moto se non passa. Quello, allora, strappo mi pare sia questione di iniettori, rischi di sbarrare gli iniettori, così mi avevano detto. Al carburatore lo potevi fare a strappo. E sempre più delicate sono, cioè. Ma poi adesso, quanto, voi di che macchine state parlando? Molto recenti? La mia è del 2008, non credo siano problemi. Mi pare di averlo già fatto, di far partire una macchina in panne. Sì, quelle recenti, quelle, vabbè, la Dacia non è una macchina molto, diciamo che è rimasta un po' arretrata con certe cose, ma le ultime macchine che stanno facendo hanno praticamente tutto digitale, ti segnano tutte le cose, per carità, sempre queste spieghe si accendono. O se no queste elettriche, mamma di turchi. Le elettriche, lo sai che l'elettricità costa più della benzina. Cioè non conviene più nulla, di milioni di euro costa di più l'elettricità della benzina. Che convenienza c'hanno queste macchine? So perché i droni a me non mi piacciono, le chiamo le silenziose io, perché non si sente nulla che mi basta. Ti cazzi cagliare manco di la bici. Registrato il bip. No, ma poi mi chiedevo già, appunto, secondo conviene l'elettrico, allora le colonnine sono veramente poche. Tu vai lì, dici, ma lì sono due colonnine, vai, magari sono occupate, cosa fai? Aspetti ora che ce ne vadano quelli. Guarda, conviene solo se hai il fotovoltaico, ma poi ti dico il discorso che fanno certi, ma io ho la villetta, ho il fotovoltaico, ho i pannelli solari, non mi costa niente. Sì, però per farti l'impianto fotovoltaico quanto è pagato? Cioè, non è che a costo zero. E vorrei sapere il fotovoltaico per la macchina elettrica in quanto tempo lo ammortizzi, vorrei proprio vedere. Avanti che vuole entrare. Niente, Tore, vai. Sì, chi si vuole fare l'impianto fotovoltaico avrà pagato 15.000 euro, se no di più. Ammortizzando lo ammortizza un poco, ma non assai. Però, cato di gusta, io so che mio genio si è dovuto mettere qua perché ne stanno entrando un po' di queste macchine elettriche per certi difetti, e sai cosa costano, e si è dovuto far fare l'impianto. E poi bisogna stare attenti, sai, in certi punti non puoi parcheggiare, tipo nei sottopiani. Boh, a me sembra un po' troppo, stavo anticipando troppo il futuro, poi anche in casa, cioè io per esempio dove me la caricherei? In garage, cioè, non fa, la corrente si arriva, però devi fare quella colonnina di ricarica, cioè ci usciano un bel kilowatt. Però il garage mio non è adatto a far entrare una macchina ormai, per come è conformato il box, hanno fatto un casino, è lungo da spiegare, è un macello. E poi appunto mi chiedevo, cioè tu hai una macchina benzina, quanto ti costa il pieno? e fai anche un bel di chilometri con quel pieno. Con quella elettrica fai il pieno di corrente, però quanti chilometri fai con quella elettrica? Scommetto meno della metà. Gianni? Beh, certamente che sì, non sono affidabili, poi con l'umidità, io la roba elettrica con l'umidità la vedo sempre male, perché basta un po' di lucido e è un casino, dai, a me non mi piace. Guarda, la mia ex moglie, quando aveva portato la macchina a fare il tagliando, gli avevano dato una elettrica e la caricava in garage, Marco, senza colonnina. Cioè aveva un riduttore, lo metteva e la caricava. Non so già, perché io ho capito che le macchine che non siano microcar, sai, le microcar tipo la Citroen Ami o quell'altra lì, hanno batterie talmente piccole che penso che un impianto normale di casa possa bastare, però per le macchine proprio full electric che siano batterie enormi, sono non so quanti kilowatt. Guarda, non ho approfondito, perché a me l'elettrica, sai cosa mi piace l'elettrica? Mi affascina solo la silenziosità, non ci sono marmitte che si bucano, capito, invecchiando eccetera. E comunque, come ha detto Gianni, se attraversi la strada senza guardare non ti accorgi manco che arriva, come i monopattini, ti giri e te lo trovi a un metro, giumai ti... Ti prova a costanzare, se dici... A parte che la gente non guarda, cioè la gente se ne frega, non tutti, ma certi si buttano, cioè soprattutto se hanno le strisce, cioè pensano, io sono il pedone e devo passare, magari col cellulare all'orecchio, che è vietato anche per i pedoni perché distrae, cioè anche i pedoni devono avere una condotta, e se no qua è l'anarchia, allora mi metto anche io a telefonare in macchina, eccetera. E così è, un po' come il bestiame, non si buttano, poi tanto, poi guai se cade, batte la testa e muore, omicidio stradale, rovinato. Vabbè, e magari la colpa non è proprio tua, è il pedone che si è buttato all'ultimo senza guardare, che magari si vada dietro un camion parcheggiato, cose quasi capitatemi, meno male i riflessi ancora sono pronti per i freni. Vai Tore. È meglio con le ibride, che ci sono... Marco, qua vicino a casa c'è uno che c'ha la Tesla, quando passo col cane davanti si accendono tutte le luci, un giorno sono andato a guardarla dentro, sembra una navicella spaziale, cioè cruscotta non ne ha, tutta la vuota, i sedili in pelle bianca, tutta vuota all'interno, non c'ha nessun accessorio, è brutta, a me non mi piace. Sì, guarda, certe Tesla sono veramente povere d'aspetto, poi è inutile che mi metti un display da 10 pollici, hai visto certe macchine? Hanno dei display che sembrano dei televisori, infatti li stanno criticando, un po' perché non è nemmeno dietro il volante, sai, come il contachilometri normale, è di lato, magari ti invoglia a buttare l'occhio di lato, a vedere magari la velocità, quello che è, e ti distrae alla fine. Poi stanno peggiorando, si dice, le plastiche anche di certe Mercedes, fanno vedere plastiche scricchiolanti, macchina proprio uscita dal concessionario, sembrano giocattolosi, mi si inesaglia proprio. Vabbè, ma io sono stato sempre contrario dall'inizio con queste macchine qua, a parte che dopo 10 anni devi cambiare la batteria, dopo 5-6 anni devi cambiare la batteria e costa 12.000 euro e basta. Sì, certe batterie ti costano, cioè scommetto che chi deve cambiare la batteria rinuncia e ritorna alla macchina a benzina, con la stessa cifra ci compri un'utilitaria, ci compri una Panda, con la stessa cifra della batteria, vabbè. Però è tutto, c'è una mafia europea, adesso la von der Leyen vuole, visto che non riescono a rifilarci le macchine elettriche, perlomeno vuole obbligare i noleggiatori di auto ad avere solo auto elettriche, capito? Questa Europa sta imponendo un po' troppe cose però, un po' troppe cose, a parte che l'Europa se la inchiappettano tutti, i russi, gli americani, i dazi, così, cioè stiamo accettando cose dagli americani, roba capestro, che normalmente uno Stato, non solo uno Stato, un insieme di Stati non accetterebbe mai in tempi normali. Gli americani stanno spadroneggiando. E praticamente il gas lo devi comprare liquido, poi a caro prezzo da Trump, poi te lo devi di nuovo fare allo Stato, ai riforme, cioè da liquido lo devi di nuovo rendere un gas. E tante cose, guarda, non so quanti, ti ricordi quell'ultimo incontro della von der Leyen? Non so quanti soldi, qua è un casino già, l'Europa è una barzelletta, forse hanno fatto bene gli inglesi a uscirsene, hanno fatto molto bene, hanno fiaggato che fate sempre tutto da lì, vabbè, Bruxelles, o come cavolo si chiama la sede, non mi ricordo, vai Tore. No, il fatto è che l'Italia è fuori da il gas lo stanno portando da... però il gas che arriva qua in Sardegna è tutto non arriva dall'America, è tutto straniero, non americano. Guarda, credo che dopo la Russia, la chiusura, un po' il casino, abbiamo fatto qualche contratto tipo con Marocco, Tunisia, dall'Africa, amico, cose del genere, ci sono già, credo, i gazzotti. Però guardate, quello americano lo usino le industrie, non so come sia il discorso, è troppo complicato, però ci costerà. Macello è. La macchina tua bene va, Marco, con la motore. Sì, già, per me ce n'è d'avanzo, cioè io alla fine seguo i limiti e velocità, vabbè, più o meno. Non corro mai, non ho necessità di correre, non mi sento sicuro nel correre, perché cosa vuoi correre con quella? Quanto farà? 150 quella lì, non credo che faccia di più. Funziona, è come avere una 1. Credo che il motore peraltro sia quello della vecchia Clio, ti ricordi la Clio? Le prime Clio, motore Renault alla fine. Per fortuna, anzi, il motore vecchia generazione, a proposito di centraline, non di quello che stavamo dicendo prima, meno problematico per alcune cose. E infatti io mi volevo prendere quella tipo nuovo. Me la volevo cambiare, ma non lo so, sono incerto. Ah, ma la nuova Dacia tipo? Quella tre cilindri, non lo so, vabbè, mia zia l'ha presa, è benzina, però, vabbè, è benzina e GPL, no? Quindi con il gasolio, ma col gasolio, con GPL spendi la metà. Però questi motoretti, 1000, tre cilindri, col turbo, cioè stanno facendo motori microscopici pompati col turbo, che se uno ha il piede pesante che sale sempre di giri, il motore chiude la metà del tempo. E poi tre cilindri, dai, persino la mia ne ha quattro i cilindri, classica, quattro cilindri, tre cilindri sono strani, li stanno mettendo anche su macchine pesanti, ormai hai visto, tutti, questo tre cilindri lo stanno rifilando a tutte le case automobilistiche, tutti i modelli, e certi vanno male, per esempio, vedi la... com'era la Peugeot era col motore PureTech, con quella schifosa cinghia di gomma a bagno d'olio, la cinghia della distribuzione a bagno d'olio, che poi dopo poche migliaia di chilometri si crepa tutta, perde pezzettini che vanno a intasare i canali del passaggio dell'olio, quando si spacchi il motore, uno schifo. Il PureTech 1200 l'avete sentito? Guarda, ne parlano tutti su YouTube, proprio una super cagata avevano fatto. Sì, poi adesso le stanno facendo tutte a tre cilindri, hai ragione tu, mi tolto le parole da bocca, stavo per dirlo io, tutte a tre cilindri le stanno facendo, motori a tre cilindri, per carità. Vabbè, dai, io vi saluto, che c'è venuto il cane a avvisarmi che è tardi, lui è come un orologio, vero Tesori? Adesso vado, col porto giù, mi faccio una passeggiatina e poi me ne rientro a casa a mandicare. ciao, grazie per il QSO, ciao a tutti, ciao Marco, ciao Tore, tutti gli altri che stanno all'ascolto. Buona continuazione, dai. Eia già, dai, sentiamo, buona passeggiata, buon tutto. Vai Tore. Sì, ok, ci risentiamo già alle prossime. Fammi bene, buona passeggiata. E se vuoi passa qua e chiedo il mio. Anda bene. A me caduto lui. Ti fa compagnia e se non ne vogliamo camminare già ci pensa lui. Ma te sei macio non con me. Va benissimo, ci risentiamo. Ok, chiudo anch'io. Ci risentiamo alle prossime. Ah, ma non mi metto più il nome. Ciao. Ci penso la memoria. Marco Cordo, ciao. Marco, ci risentiamo alle prossime. Ok, ma ci vediamo i battiti, visto l'orologio. A risentirci. Ciao, ciao. Ciao Tore, ciao, buon proseguimento di serata, buon tutto e tenetela viva il canaletto di Eci, ciao ciao a tutti.